La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'anniversario della dura repressione messa in atto 23 anni fa durante le manifestazioni di protesta in piazza Tiananmen a Pechino il 4 giugno 1989. Ospite ai nostri microfoni Cecilia Brighi, autrice del libro L'imperatore e l'elettricista, pubblicato da Dalai Editore. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato a Christine Grenville, la spia donna della Gran Bretagna preferita da Winston Churchill. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Una ricorrenza oscurata da dimenticare, almeno per il regime cinese, quella del 4 giugno del 1989. Nessuna rievocazione, un ricordo proibito. Stando alla propaganda di regime, 23 anni fa in piazza Tiananmen vi furono solo disordini politici, null'altro. In realtà in quelle settimane si consumò a Pechino una durissima repressione, una sorta di primavera ante litteram repressa nel sangue. Le proteste erano cominciate il 18 aprile del 1989 con l'occupazione di piazza Tiananmen da parte di un gruppo di studenti. La protesta si estese agli operai e assunse con il passare dei giorni il carattere di una ferma opposizione al regime dittatoriale cinese. Le prime manifestazioni di dissenso contro il governo di Pechino ebbero inizio nel corso dei funerali di Hu Yaobang, ex collaboratore di Deng Xiaoping, allontanato negli ultimi anni dalla vita politica perché considerato troppo riformista. 100.000 persone sfilarono per le strade di Pechino chiedendo più libertà di espressione e una maggiore rappresentanza politica. Fu l'inizio di una mobilitazione cui il regime rispose con una dura repressione, nonostante la vasta eco internazionale della protesta. L'ultimo appello alla pacificazione fu rivolto il 19 maggio da Xiao Ziyang, unico membro dell'establishment che tentò di stabilire un dialogo con i rivoltosi. Appello che non ebbe seguito, tanto che il 20 maggio il governo cinese decise di introdurre la legge marziale. Anche se l'esercito aveva ricevuto l'ordine di non sparare sulla popolazione civile, la situazione precipitò in pochi giorni. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno l'esercito raggiunse piazza Tiananmen per sgomberare gli ultimi gruppi di manifestanti. La decisione di sparare sui manifestanti fu presa da Deng Xiaoping, che all'epoca era capo della commissione centrale militare. Il bilancio delle vittime rimane tuttora avvolto nel mistero. Dopo una prima stima di 271 morti, inclusi militari, e di circa 7.000 feriti, il governo poi non ha mai reso pubblico alcun documento in merito ai fatti di Tiananmen. Inizialmente la Croce Rossa cinese parlò di 2.600 morti e 30.000 feriti, ma fu subito costretta a ritirare le proprie stime. Uccisi a migliaia, muore il sogno cinese, titolò il Corriere della Sera. L'immagine che ancora oggi, con la sua forza evocativa, trasferisce al mondo quel che accadde in quei giorni a Pechino è quella di un giovane manifestante che ebbe il coraggio di opporsi durante gli scontri di piazza Tiananmen tra studenti e militari cinesi all'Esercito Popolare di Liberazione. Fermo davanti alla fila di carri armati che procedevano lungo le arterie della capitale cinese, il giovane rivoltoso divenne il simbolo della resistenza passiva. Nessuno sa nemmeno chi sia né quale fine gli sia stata riservata. Per questo in Occidente è stato ribattezzato il ribelle sconosciuto o Tankman, l'uomo del carro armato. Il governo di Pechino, infatti, ha steso sui fatti di Tiananmen un velo di omertà che ancora oggi non è stato scalfito. E dei fatti di Tiananmen, di quel che accadde 23 anni fa, si occupa in parte rilevante il libro di Cecilia Brighi, L'imperatore e l'elettricista, pubblicato da Dalai Editore. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi per aver ricordato Tiananmen. Allora, il libro ha una parte prevalente, adesso ce lo racconterà i nostri ascoltatori, è scritto come se fosse un romanzo, ma in realtà è la storia vera di un dissidente, ha proprio nei giorni fatidici della protesta in piazza Tiananmen uno dei suoi passaggi più rilevanti. Allora, ci racconti un po' la storia del libro. la storia del libro, cioè il libro racconta la storia di un giovane ragazzo, figlio di contadini poveri di un villaggio dello Shanxi, in cui si era insediata ai tempi di Mao, una delle brigate rivoluzionarie, e quindi un villaggio che era poi cresciuto con questa idea della giustizia sociale, della rivoluzione, e la famiglia di questo dissidente Han Dongfang appunto viene impregnata di questa cultura nuova dei diritti, della giustizia sociale, e questo giovane ragazzo poi si cresce a Pechino e viene rimandato nelle sue montagne durante la rivoluzione culturale, quindi si racconta anche di quello che avviene, cioè della dura repressione dei morti durante la rivoluzione culturale, ma il centro del libro è un po' proprio quello che avviene a Tiananmen. Han Dongfang arriva per caso a piazza Tiananmen proprio il giorno in cui sì, ci sono i funerali di questo leader cinese che era appunto considerato un grande riformista, e gli studenti chiedevano la sua riabilitazione. Dongfang capisce che quella piazza stava lanciando anche un grido di democrazia e rimane, e lentamente si organizzano anche i lavoratori e entrano in piazza, occupano una parte della piazza non rilevante, perché c'è anche uno scontro tra i lavoratori da una parte e gli studenti dall'altra, una cosa che non viene detta perché a suo tempo gli studenti non volevano che i lavoratori potessero inquinare le loro richieste. In realtà poi invece sarà un movimento che coinvolgerà studenti e operai al tempo stesso. Assolutamente, nei giorni di Tiananmen sfilano in piazza milioni di lavoratori che entrano in sciopero, che manifestano poi insieme agli studenti, anche se appunto ci sono momenti di tensione tra di loro, ma poi si arriva ad un'alleanza. E il libro racconta anche un po' lo scontro tra prima queste due anime della rivolta pacifica di Tiananmen, e poi lo scontro tra la piazza e il partito, e nel partito l'ala dialogante che era rappresentata dall'allora segretario del partito, e Li Peng, Li Peng e Deng Xiaoping, chiamato bottiglietta perché poi Deng Xiaoping significa bottiglietta in cinese. E quindi lo scontro tra Zhao Jiang, che è appunto il segretario generale, che era aperto alla riforma, anche alla lotta alla corruzione del partito, e invece i falchi. E quindi c'è questo scontro, dialogo e confronto anche che si realizza con degli incontri anche con gli studenti, uno dei quali arriva addirittura in pigiama perché c'è in atto uno sciopero della fame, quindi c'è una situazione di tensione crescente, fino a quando c'è appunto la dichiarazione di stato di emergenza da parte del partito, e poi il 3 giugno le truppe dell'esercito di liberazione entrano in piazza, come dice il partito, per schiacciare il movimento controrivoluzionario. Infatti questo fu l'esito tragico di quel movimento così importante, sul quale appunto è stato steso un velo di silenzio, di omertà. Ma volevo appunto chiedere a lei, che è responsabile del Dipartimento Politiche Internazionali della CISL, ma è possibile che dopo 23 anni, in un mondo ormai dominato dalle moderne tecnologie di informazione, un regime riesca a oscurare così violentemente quello che avvenne 23 anni fa? Guardi, intanto vorrei dire che si parla dei morti di Tiananmen. Intorno alla piazza ci sono state centinaia di uccisioni di gente travolta dai carri armati, dagli spari appunto dei carri armati, ma anche dell'esercito, ma non si parla mai del fatto che ci sono state dopo Tiananmen una serie di condanne a morte. Sono state decine di migliaia di persone che sono arrestate e circa un migliaio di condanne capitali eseguite, quindi questo è un altro elemento di gravissima cancellazione degli effetti di questa rivolta pacifica degli studenti e dei lavoratori, che finisce in quel modo tragico non perché c'erano gli studenti in piazza, ma soprattutto perché i lavoratori si stavano organizzando. Il partito temeva che questa rivolta operaia potesse crescere in modo smisurato e che loro non potevano, in modo tale che il partito non riuscisse più a controllarlo. Allora, perché Tiananmen viene oscurata? Perché la Cina è diventata ormai una grande potenza economica e politica, se guardiamo a quello al rapporto nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, in Banca Mondiale, hanno ottenuto anche un riequilibrio del loro peso negli organismi decisionali, però ha mantenuto una struttura di potere, diciamo tra virgolette dittatoriale, perché sulla questione dei diritti umani e dei diritti anche delle minoranze ha mantenuto una chiusura totale. E siccome tutti i paesi sono estremamente interessati ai rapporti economici e commerciali con la Cina, sono questi gli interessi prevalenti, la questione dei diritti umani in Cina è sempre stata sollevata in modo molto soft, e nessuno ha mai posto fino in fondo il problema di una chiarezza anche storica sui fatti di Tiananmen. Ecco, un'ultima domanda: ma oggi cosa è rimasto delle istanze nella società cinese, per quanto possibile capirle anche a distanza, delle istanze riformatrici di 23 anni fa di piazza Tiananmen? Dunque, intanto bisogna dire che i giovani di Tiananmen sanno assolutamente nulla, ecco. Perché appunto c'è un non detto storico lungo 23 anni, quindi c'è una generazione che non è a conoscenza di quello che è avvenuto. Però certo ci sono una serie di organizzazioni in Cina, delle organizzazioni della società civile, che si occupano anche di diritti e di diritti umani. Non è un caso che c'è stato un premio Nobel per la pace che è stato dato a Lucio Bo l'anno scorso, è rappresentativo del fatto che nonostante la repressione, nonostante il silenzio, ancora in Cina ci sono migliaia di persone che lottano per i diritti umani, per l'affermazione dei diritti delle minoranze. Molte grazie. Grazie a lei, arrivederci.